senti a tutti e ognuno ti dà il tempo, ti dà, capito? Bene, Fritti, non è come la 27, la 27 mi pare che sta diventando una cosa, per carità. La 27 accendo sì, però ascolto e basta, poi sull'altro qualche ingresso me lo faccio e un momento, mezz'ora, un'oretta, tutto lì. Cappa di roccio, già va bene, purtroppo ci sono delle interferenze che si accavallano uno sull'altro e non va bene. Io come ti arrivo alla tua postazione, Tony? Come radio sì, ti dico che sei top, come segnale sei abbastanza tocco, te l'ho detto sempre che non c'è nessuno che mi arriva col segnale come il tuo. Ho detto tu che sono assassino, che sei assassino, segnale come tu non mi arriva nessuno. Gappa, va bene, io lo stesso che stai entrando tanto, perché purtroppo bisogna trovare le persone, sono poche le persone che si può modulare con santa pace e tranquillo. No, ma siccome ho sentito degli amici che sono compromesso perché non stavo più avanzando, non stavo più modulando, ho trovato un giro di amicizia su in quella frequenza lì e mi trovo bene, tutto lì, capito? Ho creduto che sono una persona abbastanza che modulavo con quelle persone lì, che modulavo anche il 27, capito? Il 27 e su questo binario che siamo adesso. Ah, gappa. Ma è così. Guarda, se fai il giro bello, che non ti rompano le scatole, compagnia bella, fa sempre piacere fare un certo tipo di discorso. Che poi c'è anche questo, ti danno il tempo di entrare, di fare il tuo discorso, e compagnia bella. E il giro va, l'ho fatto così, capito? E se no, se si accavalla uno sopra l'altro, ma non te lo sento prendere uno con un sattero. Non ci sono sovramodulazioni né niente, capito? Poi sente la modulazione che sembra un coso, una telefonata. Ringrazio che non c'è l'antenna sul tetto, perché ce l'ho interna. Però pian piano recupereremo e come c'è un albero che è lungo 25 metri, capo ne ho, e l'antenna la posso mettere sull'albero. Noi siamo funzionati pure, grazie per salvare pure, non si vede, e andrà bene. Se lo leggo all'albero, metto un capo per fare la massa e ho pittato l'antenna è lunga un metro. La carica che c'ha è lunga la carica, mi sembra che sono 45-50, poi c'è lo stilo da 50 centimetri, in tutto un metro di antenna, capito? Però, come antenna è buona, mi fa bene sia uno sia l'altro, facciamo bene sia da uno sia dall'altro, non faccio varie, ognuno, chiamo. Va bene, io bene, e me la mostra questa antenna, non è? No, questa antenna me l'hanno regalata insieme all'apparato che mi hanno dato. Ho comprato solo il capo e a dire la verità l'antenna non so come quanto può costare un coso, una parte del genere, perché a me mi fa sulle due, perché mi fa voi capito? Va bene, ma se la 27 potete entrare? La 27 no, perché questa l'abita solo in FM, capito? Ah, no, ho capito. Mi fa VU, però solo FM. Andrà bene. Poi l'altra che c'ho, mi fa dai, la bevanda mi fa dai 25 e tutta quanta la decametrica. Allora va bene, io voglio. Ehi, tutta una travedenza, non si preoccupa, volevo. battentino smaltisce e vado sulle altre bande, perché a me questa mettessetta non è che mi piace più di tanto, vai. Studiare deve, no? Devi studiare perché prenderà patentino, non è facile, capito? Non è facile. Più facile prendere la patente di guida che non prendere la patentino di radioamatore. Ehi, K, ehi, dico bisogna studiare, ehi, vabbè, si studia, tu mi... si studia, ma se ce la faccio è tutta l'altra vedenza, eh? Ma quelli ovvio, se studi sì, però... A tutte queste persone che ho sentito, quando vai a studiare e vai là che dai l'esame, non è sempre che ti capita quello che hai studiato. Ma è beh, quello che è vero, ci sono delle domande che magari cioè, domande che tu hai studiato, però te le fanno in una certa maniera, lo so, sono domande molto, molto difficili. Tutto quello che si dice, no? Entra nella busta, e nella busta va a vedere, senti, siccome talmente che ne ho sentito, quello che hanno studiato, alle domande che hanno fatto all'esame, quelle domande che hanno avuto sulla lettera, quelle come hanno studiato, non c'erano. Infatti. E si conferma, è vero, perché anche Roberto, quando è andato all'esame, Roberto Quadrato, che lo conosci, domande che non c'entravano né in cielo né in terra, infatti io non ho riuscito a passare. L'unica persona che possono passare facilmente sono Romì, l'unico è quelli che hanno studiato, che ci hanno avuto la fortuna di darsi la laurea in ingegneria elettronica, perché quegli esami non è fatto. Poi del resto bisogna prendere la patentina di corso, è difficile. È vero, purtroppo tu lì. Ehi, vabbè, pacisce, non ci possiamo fare niente. Ah, purtroppo, ma devo... 27, anzi, sì... Come... sono in treno urbano, in 9, oggi... Pensando di saltare in questa tra... Quando io esattero l'ultimo dei due... C'è stata un'operazione senza nulla, in AM, vedi tutta quanta l'Italia, con l'antenna che c'è adesso, però me l'accordavo e riuscivo, però passaggi qui, mi sento fare passaggi qui, Ah, è cappagato. Guardate qua, questa antenna non la può mettere. Guarda tranquillo, capito? Non se non fa le palle con nessuno, andate tranquillo, tutta un'altra cosa. Beh, infatti è tutta un'altra musica, è vero tu. Purtroppo, qua c'è la cappella. Dove devo andare, una bella spiegata, dire, non c'è da sbagliare per niente. Infatti, beh, se sia una tabella e ci sia il giro buono, non fai altro che girare il tastino e andare, e via. Allora dicendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 canali non posso migliorare, però sugli altri. 162 425 a voglia metà. Sì, a voglia canale, sì. Andrà tranquillo, senza prova, capite? Tutti. Hanno avuto altre frequenze, certe volte mi fa di ascoltare altre persone, però qui non posso entrare, ascolto e poi, perché mi va di, è bello anche ascoltare, perché certi argomenti che prendono cambiano, questi così a bocca aperta, come si istruiti e via dicendo, capito? è bello anche ascoltare. Parla di elettronica, però elettronica di, proprio sul senso della parola, proprio l'elettronica, niente che costruisce e che ti rimanda in prova anche. Aspetta, è bello comunque, è una cosa bella sentire parlare, beh, è una cosa, beh, tutto un altro mondo, diciamo, dai, diciamo la verità, è tutto un altro mondo, dai. Ah, io lo faccio, certe volte li ascolto, mi fa piacere ascoltarli perché adesso ho buscato io l'attrezzo, come stavano parlando loro, di un tipo di alimentazione, ho buscato l'attrezzo, solo che io non lo so piazzare. Allora, dopo qualche tempo c'è un amico qua che me lo piazza e mi fa piacere, capito? Uno che ho autocostruito io, che mi è andata bene dopo qualche tempo, solo che mi manda la corrente più alta. Mi mancava un coso, il regolatore di tensione, ce l'ho. Però non so come va piazzato, però c'è un amico che mi dice che ti ripiazza, quando lo trovo glielo porto, me lo piazza e c'è un signore alimentatore che mi dà sui 60, dai 65 massimo 70 ampere, corrente erogabile, regolabile dai 0 ai 18 volts, a 20 volts. Stava bene allora, stava bene. Poi no, come conversatore è bello. C'è un conversatore che è grosso quanto una bottiglia, un po' quanto un peroncino. C'ha i tuoi, tipo la batteria, pitatura, c'ha i cavi, tutto quanto. Uno vedi solo l'anima, poi i componenti sono tutti sotto. Io per lei. Sì, l'ho controllata, solo che mi porta la corrente a punti grossi. Ho sentito questi amatori che ti vorrei vedere, l'ho trovato perché me l'hanno dato da un altro alimentatore a corrente regolabile, però non so come va piazzato, capito? Tutto lì. Ok, ti saluto perché è arrivata gente, ce la sortiamo magari alle prossime. Ciao ciao, stammi bene e mi ha fatto piacere sentirti. Anche a me mi ha fatto piacere sentirti. Buona serata, buon continuo di serata, saluto a te, guerra familiare. E tu, buon tabacco per domani e ce la ascoltiamo tutte le migliori. Ciao ciao. Ciao a tu, ciao ciao. Ciao. Lo so, ma ma se la propagazione non è bella ci possiamo divertire. Cioè, quest'anno è in ritardo. Infatti quest'anno dovrebbe essere già bella e aperta. Ricordi l'anno scorso, mia QSO? L'anno scorso a quest'ora, la domenica e il sabato stavamo già scattiando. Mi sono confuso. conosciuto? Zitto, non è parola. È bocciata. Ora c'è tutto. Non è scelta di propagazione, Luca? È stato un casino, dai. Ma non passa a passo la cerca. Allora, basta, Massimiliano. Preparati. Cosa? Dico, ma adesso inizia, preparati. È tutto pronto, già. Allora, già fai collegamenti. Mi pare a casa quest'anno poco niente ne faccio io. Cosa? Che da casa me devo fare poco e niente. Ma perché lei non hai tempo, che cosa? No, ci sono quelli lì in giro. Sì, sono quelli lì in giro, ma... Tanto già glielo ho sotto casa a voi. Fede nuovo, in via Raffaellino. A sono di moglie, so. Chi? Scusa? No, che c'è questa ditta qua che sta facendo marciapiedi nuovi. Ma sono di una velocità impressionante lavorando. Quindi sono organizzati bene una squadra, hai visto? Così bisogna fare, allora. Mettono i punti, scolatore, caricato, fatto il massetto, mettono l'appresso. Qui si lavora. Ma non piacciono molto come lavorano. Dico, me lo metto 2 ore di smacciatele pronto. Qua sono ancora 2 ore, dico pronto. Ah, c'è un'organizzazione micidiale. Via. Poi che la fa? roba a mangiare, dai. Pappa, vai nel morsettino e poi riprendiamo se c'è qualcuno, se no tutto quanto coincide. Un bel po'. ecco, Ostia, Roma, Civitavecchia, sono stato a Terni, sono stato un sacco di posti vicini. E stavo leggendo, ma anche la Cabula Mariavi. Cava. Bernardo è amico mio, mi parole, io ormai lo era Bernardo, ma andiamo a spasso lì a bere a Cartesia. Ehi, ma non è romano, non c'è manco l'accento di romano, capito? Io ho mille amici a Roma, non uno, non è un bel. Quindi, ogni tanto ci ospitano l'estate, andiamo, ci ospitano e ospitiamo noi qua, quindi le conosco. Cavello, dai, ce la presentiamo. Ciao, Romano dei Lassari. Ciao, è un romano, mi arriva, io ho attaccato il portatile, mi arriva dentro il portatile, ecco, un antenino telescopico mi arriva lì dentro da Romano. No, ha detto che è a Sassari, però di Romano non c'ha nulla. Ok, qua controllano, fanno qui sotto casa tua, me ne senti a fare di Roma. Ella voleva giocare. Che fanno giocare? Avanti a tu. Ma c'è a tutti. Da Antonio mi hai sentito, il Capri 2 è il doppio numero di questo canale. Poi c'era un fitto romano. Vero. E uno che voleva fare romano ma non c'è riuscito a farlo. Io lo stavo ascoltando. Comunque, l'amico stranito vuol dire che sei di malumore. Che ne vedo stranito, ti vedo di malumore. Dove si stava fermando? Lui che non è di Roma. Quello è più sardo di noi. Se non è sassarese, è di tu. Avanti, Capri 2. Ero da Natalino mi adesso. Ho visto tutti i piccolini. Ok, non l'ho sentito già Natalino. Non l'ho sentito, l'ho sentito l'altro giorno. Prima di andare al lavoro. Ok, tu già, tutti quanti Roma, ma ovviamente abbiamo le facce un po' di ritardi qui anche stasera, una delle ringraziare che stasera c'era, che c'era Fabio, lì di nuovo, e io ho toccato una Iane che ha detto, che dopo io ti avvengo, mi sa perché infatti, ciao, devi avere una coppia, aspetti, senti, ma tu che canale già, la ricezione? La vicinanza si sente, quando si è in vicinanza. E beh, se si sente, cosa vuol dire? Dica, diciamo parolacce, non diciamo niente di cattivo. Ma non mi va neanche bene, non mi va neanche bene, cioè, e comunque stiamo quando la luce la compagnia Baranzi e Nalcia, quella come radio, i PRF, quelli che sono io, e sono venuto perché faccio la cosa di qui, ma che puttia è qui, sono quelli che sono giocato, sono. Metropolitana. tecnica lì. Comunque c'è un disaccordo tra amplificatore apparecchio, ho capito. Oh, l'ho sentito, e qua mi è stato un bel regalo, guarda, purtroppo non è nuovo nuovo, mi hai detto tu senza essere saltato nei cavetti, guarda, mi è stato, guarda, veramente un bel regalo. Pensavo una volta, due volte, questa è la terza, mi fa la cosa, un giocatore del genere, guarda. Vabbè, comunque sia, dicono, in Bocchino c'è sempre la baracchina, però ci hai messo tu, perché io quel coso lì l'ho dato e mi hanno dato un bel baracchino a posto di quell'aggeggio e un gelato. Pazienza, in Bocchino sei stato tu a un certo punto, non io. Dopo l'ho dato voi con l'aggeggio e io l'ho dato con un baracchino, tutti batteri. Siccome il microfono nero, senza capo, con l'altro microfono, senza in come condizioni, e più il resto. Vabbè, pazienza, non niente. Mi sembra l'esperienza quella. Secondo me quel microfono c'è un problema collegato, se tu sei un tecnico lo devi saper fare collegare, perché io mi hanno dato, anche quello mi ha solo sbattato da mettere il capo, perché se io mi metto contente, mi metto la collega, lo faccio funzionare, no? Non c'è problema, poi tu mi dici che sei tecnico di baracchini e devi sapere, e se non sai fare il microfono, poi fai dici che fai i baracchini. Ma non ti preoccupare, io ho già comprato l'apparecchio, ho già comprato anche il microfono a Stefano. Quindi non ti mettere problemi, perché da te, la moglie voleva quella cosa lì, con quei soldi di quella gestione lì, io ho comprato l'apparecchio e ho comprato il microfono. Quindi, perché da te, a un certo punto, non è che ne sia poi tanto la verità di vita, che ci hai messo sei tu, non io. Perché io quella cosa là, la stavo regalando, perché non ne faccio niente, ne ho due, tu già lo sai, e non ne facevo niente, a un certo punto, quindi una volta, due volte, tre volte, la stessa volta, allora è con il vizio. E quindi, aspetta un attimo, che c'è la panico che sta andando male, e quindi ho detto di conseguenza, tutto lì. A un certo punto non ne farò più niente, non voglio parlare, non mi accade dei problemi con te. Ho già preso tutto, non me ne frega niente, ho già per te, c'è la macchina da cucire che l'altro per 70 euro, ma figura di due. Microfono, ho preso, microfono amplificato, tanto più 3, ho preso dei samurai, che dice su canali da internet e anche un adattatore, figura di un po', c'è anche guadagnato, la faccia tua. E a parte non vuole molto macchina da cucire, capisco. Uno non è quella che c'è qui, hai capito, no? Io ho trovato un po' di altro e non voglio niente in cambio. Ma la prossima volta vanno i negozi, guarda, mi piglio il microfono, mi dico, ah, se manca il microfono vai te lo spiazzi, non c'è problema, eh. Tanto mai sono tutto altro, vabbè, comunque non è niente, tutto lì già. Prendete bene per una volta, non ti va più bene per me, te lo sto dicendo, per me si è bruciato. Quando vuoi qualche cosa da me, prima o poi, quando vieni qua, le cose sono diverse, altro non ti posso dire. Comunque, questo discorso non vedo neanche fosse aperto, non me l'ha fatta venuta. Tanto mai la roba l'ho gelata e sono a posto. Allora, tanto di venire. Stavo chiamando, Alessio. Io ti stavo chiamando. Come va stasera, tutto a posto? Con la cosa di ieri sera, sì, tutto a posto, sì, tranquillo. Sei con il cazzato, no? Sì. Vabbè, lascia passare. Così, sì, no, adesso a posto. Meglio così, sono contento della verità. Almeno sei tranquillo e non c'è nessun problema, là. Sei più calmo almeno. Cioè ti hanno fatto un bel regalo, ti hanno fatto. Sì, mi sono fatto un dialogo una cosa su internet. Ho dato una macchina da cucina, la verità, e ci avevo guadagnato. E quindi sono a posto, ho fatto un regalo a una persona, un bel microfono, un bel, un bel, vecchio, quindi è rimasto contento. Quindi poi a me ha visto la moto che mi è rimasta a me. È contento lui e quindi non ci sono problemi. Se io ce l'ho un microfono, me lo completo, salvato il frutto, niente. No, sono esatto, eccetera, eccetera. Quindi non so più niente. Scusate, non vedo proprio niente. Basta, la verità. Cioè, sono di me, sto lavorando, sono a posto, non voglio sapere niente. Quindi, mi ho curato la busta, ho battuto questi tre canali che ci ha fatto un favore per aver portato la bere, e il discorso è chiuso, tutto lì. Quindi, d'ora in poi, se non dovessi pigliare qualcosa da te, meglio lo assegno, e non lo assegno, meglio sono i contanti che niente, la verità. Non ti offendere perché è così. Quindi, non è... il discorso è chiuso. Non devi sapere niente. No, niente, ma io tiro il microfono che si tiene il clic, che non mi interessa più. E cosa? Non era la cosa del microfono, hai capito, no? E poi il mio palacchino Inter che funzionava perfettamente, perché ce l'avevo in macchina, a me che funzionava l'apparecchio, perché io c'è purtroppo la macchina con quello. Non dire che ce l'avevo l'Inter che non funzionava, che non è vero, un apparecchio funzionava. Ascolta già, un apparecchio 34 qua non si va a scoperchiato senza avvitti, il discorso è questo. Mi ha dato il microfono, smontato, mi ha dato il microfono, ho trovato l'aspetto, guarda, mi sono accorto ieri, la volta che glielo stavo per dare, senza collegamenti, quindi già, non mi ha fatto niente, guarda, non mi ha dato neanche problemi. Quindi il discorso lì. Beh, ho dato due volte, quindi non è poi, quando vuoi avere qualcosa da me, chi trova qualcosa di buono? Il mio è trovato chiuso, perfetto, è la stessa cosa che io più ti do il mio senza finali, ma va bene, quindi ormai la cosa è passata e basta, quindi mi sto dicendo l'apparecchio che ho dato, aspettano, sono a posto, sono tranquillo, tutto quanto lo sono pagato io, non è stato proprio niente a me, di lì, 34 canali, tuo. Mi hanno dato tre pezzi, a un tecnico, se non già lui e basta, allora non sarà stato niente, così anche i microfoni, perché sono senza essere collegato, non sa niente, la verità, quindi non mi deve avere altri problemi, il discorso è chiuso lì. Noi a fare non facciamo per niente, se capita una cosa che a te ti interessa, per tranquillo, se ti sono porti sotto in mano, non te ne rompo, perché io sono fatto così. Già ho fatto scavato due volte, non una, due volte, il problema è quello, quindi non lo so. Sì, io fra Stefano gli ho comprato due apparecchi, li ho pagati senza, io ho comprato il video e li ho pagato, ho comprato il contact e gliel'ho pagato dove? E il contact avrà fatto anche senza microfono. Ah, già sempre tu, gli comunque gli apparecchi funzionavano. Se la teoria funzionava comunque, l'Inter 34 anni che non è stato più comunque, mamma mia, io voglio, ma perché te la fai per un tatto, scusa, a me la guai, no, guarda, lascia prendere già, fregatela, tutti dimmi, la fai che l'ho comprato io a cosa, Stefano, fregatela e basta. Da oggi in poi, se dobbiamo fare affari di due, con te non lo faccio più, sinceramente, perché non lo faccio più. Perché tu l'hai visto, io mi hai trovato in pieno, funzionante e cosa. Quindi, basta. Tutti gli altri, non... Basta il fatto che ho avuto pazienza. La prossima volta, come si dice, l'altro è sicuro la buona persona, la seconda volta non dico di più, tutto lì. Se tu mi dici un affare... Non faccio più fare con te, tutto il mio è chiuso. Non lo vedo più davvero, mamma mia. Chiudiamo il discorso, basta avanti. No, facciamo una cosa, Stefano, quanto voleva che poi non tu mi riposi il link che ti ho dato, mi riposi quei microfoni io a Stefano le do, perché tu è uno che voleva per quell'apparato e siamo a posto. Anche così sono come. Ma avete mangiato a Stefano, tutto il dillo, mi ha fregato e basta, tutto il dillo, io non ci mettere problemi, l'ho già fregato io, non l'ho fatto nulla a me. Quando sono compreso anche il microfono, guarda, ho fatto meno il microfono agli altri, perché non ho smontati, quindi non mettete problemi, Gianni. Quindi, ormai, la roba gli ho già dato a Stefano, siamo a posto, quindi non ho lamentarti, la prossima volta che tu fai fare con me, come il buio, se rabbi il buio, tutto lì, il discorso è chiuso. Sì, fai come il buio te lo metto, come il buio, se non vuoi fare, ti lo fa. sono bagagliati, non si preoccupare. Addirittura, però ci vuole il flessibile acciaio inox 18 litri, obbligatorio. ricercatore se ne coincide con voi, penso già da 10 anni in vigore la legge. Altrimenti se ti succede qualche cosa, anche che sia colpa della bomba, l'assicurazione non ti risarcisce della bomba, eh. Sì, si è parlato, ma anch'io me lo stavo pensando, che la bomba era una cosa lì, una cosa che si vedeva, no? Quasi o no, adesso mio moglie non c'è, non ho sentito nulla, perché se le dico questa cosa me la fa cambiare questa notte, se non l'ho detto, no, bisogna trovare, ma ha lavorato questa roba che fa, questa, ha lavorato, diciamo, al muro questo principio. Murato? No, non va attaccato, sicuramente c'è il piano cottura. La piano cottura va alla bomba con degli attacchi particolari. E niente, è tutto lì, a meno che tu la bomba non ce l'hai dentro la cucina oppure ce l'hai all'esterno fuori. Ma io che faccio, ad operare una bomba a piccola, perché la grande non si sa, all'interno del, come si chiama, diciamo, della bomba sotto. Capa, allora lì invece della pompa, la solita pompa, ci va questo tuffo in sicile in acciaio, va collegato a te, in questo caso c'è il forno che è elettrico, se ci avessi avuto anche il forno a casa sarebbe avuto esserci un raccordo che raccordava sia il piano cottura che il forno, ma tu in questo caso c'hai soltanto il piano cottura. Quindi va collegato al piano cottura, alla bomba con un attacco particolare, poi cioè, se tu le vai a comprare oppure te lo fai fare, già lo sanno come l'ho fatto. Ci va il polmone, che sarebbe quello, come lo chiamate voi, il regolatore, ci va collegato al regolatore, e poi va collegato alla bomba. E ok, grazie, ti ho fatto bene, hai detto. Perché ci avevo sempre questo comunicato, no, noi abbiamo attivazione, perché non si scherza, ma fa un conto e saltiamo operati, non si può nulla, è che ci sia qualche scaldi la pompa, qualche fuga di gas, che usciamo poi in accendere la luce e si salta la casa in aria, o no, lo vedremo domani stesso. Capo è positivo, avanti chi voleva entrare. Buonasera a tutti, Gianni Doppio Rum. Buonasera Gianni Doppio Rum. Ciao anche a te, Pierpaolo e Capri 2, avanti. Ok, grazie anche per voi comunque. E non sta parlando di bomboli, Gianni. Ok, di quel fattore, io devo mettersi un raccordo lì. Già. Ciao Pompone. Niente, sei entrato, è stato la saturo in casa, no, la saturo no, è un po' compressa, io per me non era saturo manco prima. Sì, no, perché con questo mi ascoltavano bene, io non so tanto che non lo so, per carità, realmente che non faccio come tra l'altro, dovevo guardare per altro tempo, questo tempo, perché sta con affari, e niente, poi l'altro anche poi eliminato, perché quello fa girare il contatore, che è un valvole, però poi gli metto a posto, mi riparo, gli metto da parte. Ok, dimmi com'è andata, l'ho sentito il baratto che hai fatto, com'è andata, sta bene già. Mi sei andato bene. Per qua, ma gli ho detto quanto costa il tubo HP2? Costare 70, 73, 73. lo picco se c'è da piatta, lo picco. Non farà una pazzera, però la vediamo questa roba, ma non niente, riporta, però è sempre sotto controllo, però se mi dici che ti vuole più lo mettiamo, però c'è un modo di metterlo, ok, per il momento rimani così che prima domani provvede e hai solo anche altre cose da fare, se ti spogliatore nuovo l'altro giorno e mi sfruttano niente, avessi mettendo un po' di predica. Ti ricordo che la vita costa di più, la vita costa di più, confronta 70 euro, quindi, e devi tenere conto anche un'altra cosa, quel flessibile d'acciaio, non si bucca mai più di poter fare una vita. E non lo so più il padre o no. E non lo so perché se ci sono quelli di Agogni, mi avete messo in allarme, no, no, glielo facciamo. Quella settimana ne ho preso, ho comprato anche degli spugnatori perché si è incasinato, non so, se conta che abbiamo fatto la benzina che non era come non può essere fatto, l'altro degli spugnatori, avanti, la campagna pure degli spugnata. Positivo, lo prendi Gianni. Fanno di là, capi due, che gli avvirai. Non chiudevo più. Appoggiare, davvero, non spendo più, non ho comprato la pena come ho sempre fatta, come assolutamente, perché sono molto più importanti anche lì, e le spese che ho fatto, sono andato a questo, sento che ho fatto una pena, poi la ritirerà tra gambe, cioè, che cosa fai, almeno 30 euro pieni, cucina, no, no, ecco. Hai capito, devo trovare per altre cose, io parlo con mio figlio stasera, non fare altre spese che ti deve arrivare quella adesso, la monica nuova a giugno, ma te l'ho fatto più da io per gli aggiungere, che perché sei d'uomo. Capri 2, te la posso fare una domanda senza offesa? Dimmi, dimmi già, per farlo. A me come ti dici io che sa se tu mi fai un po' secca il culo? Come? Se tu mi fai un po' secca il culo? Perché che fa? Oh, non lo so, ma mi sembra. Ok, no, niente. Mi dici? No, era così una domanda, perché mi sa l'aria così, va benissimo che tu la pensi così. No, ma tu rispondimi sì o no. Ok, cioè significato cosa non vuoi venire per fare? Che sei secco, che sei secco. Per una rodeo, ridi. Beh, io spendo per fare, non è che non spendo, spendo anche troppo, Allora, non mi ha risposto sì o no. Beh, un pacchettino mi devo quadrare il bilancio, capito? Non posso stare sempre mettendo, cioè non avevo scelto tutto di questo, capito come sei chiesto tu? Allora, se lo sei cieco, domani presto mi dico, no? E quando mi ritorni? E ho di questi giorni, sto scherzando. Già l'hai spento, anzi, ti sono stonata anche troppo spettatore, però adesso ti faccio dichiarazione di reddito, cazzo a te fare, devo fare, hai capito, io se state non lavoro poi scuola, non capito, io finisco a giugno, poi ti mando, non sono pagato nei mesi, e quindi devo, capito, prendere la linea. Ciao, ciao, stavo scherzando. Scherzo naturalmente. Oggi non so per fare, non sto usando i soldi, di questi ce ne ho preso, ho preso un tetto, ho preso tutte quante con quella che tre le gambe, altre cose varie. E se non mi chiedi, tutti il piccolo che mi interpreta. Ma l'acqua. Mi sono iperbaccio. E qui e là, l'altro giorno, la moto le ho comprato un casco, che ne so, nella distanza, è sempre dato, però insomma, glielo metto, siamo nel 21, presentarmi la dichiarazione del merito, stavo un sacco di soldi, mi stanno il 22% di fatturato, e devo devo fare a tempo, è capitato Olimpiadi anche, quindi devo fare, si sa bene per fare il primo periodo che inizia, quando inizia la scuola fino al periodo natalizio, però poi devi stare, e puoi vivere, diciamo, direttamente quei tre mesi, non so, stavo lavorando, capito? E, diciamo, con quello che avviene è benissimo, però non si sa mai da come gira, gira la, la cosa, riprendi già. Ma bisogna fare le formiche. Sì, no, perché io stello già, ma come si chiama qua, adesso senza andare molto lontano, io quando ho montato le antenne del digitale, tutti e due per una cifra e non mi serveva, ho dovuto andare a Conforama a comprare quelle pistole digitali che vanno impiattate e altre spese, e se mi ripeto, sono venute quelle, ho fatto quel po' per la bolletta, diciamo è arrivato la moneta, vabbè, c'erano le stufe, c'era lo scaldabile sempre attaccato, una mazzata di 300 e non si è voglia, non si è, capito, non si trovano per strada i soldi. Signor Rosso, e non è finita qui. Aspetta, allora in sempre, se no, c'erano passati, c'era, capito, cioè, se non c'è, devono essere stato miliardario. Donato, non è finita qui, aspetta lunedì. E come mi devi dire a 30 euro e poco. Meno come siamo, Sono Pierpa, gira gira, mi ho detto, tutti i soldi che ti ho speso in quell'acquario ti porto, ho detto, ti compro una maschera, ho detto, ti pensi e ti riguardi lì, pensi. Sì, sì, 72 euro per una macchina, ma finita. Ai. La prossima volta porterò di un acquario già, il compagno di un coso, un vibratore, forse è meglio risparmi anche, guarda. Se no già faccio il biglietto, ogni fine settimana la porto a zero per vedere quell'acquario che c'è. Ma io... Ma allora se tu sei quello che abbiamo speso in Natalino per l'acquario nostri, ti buono rimane in campo. Solo il mio acquario, solo il mio, quando l'ho comprato in lire costava, ti parlo di 21 anni fa, 900 euro l'acquario e più il mobile è venuto 1200 euro. Poi già lo so, già mi pare che quello che c'è Natalino non è, è un acquario con i controcolli, l'ho visto e quindi non lo fai con 100 euro, capito l'acquario, no? E questo c'era perché l'avevo comprato a Claudio quando era piccolo, però... Sicuro, ISZ Busta, cambio! Hai mamma, ISZ! Ciao! Buonasera, H2, grazie a te doppio Ru che mi hai fatto entrare, poi se non sbaglio ho sentito a quell'altro squinternato di Vela e poi chi altri ci siano non lo so. Buonasera a tutti e ben sentiti. Facciamo mai, veramente ti avevo detto un attimo. Vabbè, comunque, c'è il problema, c'è anche più che stava a parlare. Andave, mi hai sentito Mario, ecco, di verità, avanti per chi vuoi. A me uno vale l'altro, non ci sono problemi, io chiacchiero con tutti, non ne ho problemi. Ho sentito che stavate parlando, però hai detto qualche bugia, perché l'acquario tuo non costava 1200 euro, costava 1.200.000 lire. È vero, ma hai ragione, va bene, non è mille infatti. Sì, 1.200.000 lire, quello di Natalino l'abbiamo pagato 130 mi pare, 130 euro. Però solo l'acquario, poi tutto quanto l'arredamento ci ha speso altrettanto, forse di più. E costa più quello che ci metti dentro che comprare l'acquario. Infatti io sto tentennando per piazzare il mio, già lo sai che anche io lo stavo costruendo. E niente, ma quando sarà lo faremo anche quello, Gianni. Perché? Perché quando ho sentito il prezzo me ne sono pronte le braccia. No, Gianni Campione, non ti ho capito perché sta parlando male, ti senti fuor sotto. Cosa stavo dicendo? E l'altro voglio vedere se quello non è a posto già, che quando gli ha detto il prezzo, senza maniche, in quanto apposta, l'ha detto. E cosa c'è? Eccolo qua senza maniche, perché quando ho sentito il prezzo mi sono calcato le braccia. Trattate con cura, a chi io non è che sto col Zecco, a chi, cioè, paga me conosci, e lui sa chi è, da candela minore, esattamente a voi, che fate da 9 anni, anzi, sempre comparato tutto e non ha mai fatto mancare nulla. E invece, Edu, si deve pure in campo, chi fa vere cose, bisogna zappare, che non la gente fa dalla girata della cantonata. E le cose le sono sempre comparate e quando uno impende le denaro bisogna trattarle con cura. Sì, ma io la va tutta loro, mi date nel senso il secco, capisco? Sì, già l'ho capito, io infatti sto rispondendo, perché siccome mio figlio sta 19 anni ancora non capisce quando uno spende i soldi che le cose vanno trattate con cura, tutto lì. E poi non era nemmeno paese un microfono, era Barro e Giusto. È positivo, io avevo capito, io parlo a me, ma lui ha fatto la battuta. L'ho capito, vera, le battute si fanno e si accettano, non è che sto dicendo quello lì. No, anche secondo me lo intendi, magari lo crede davvero che sono quel Zecco. No, ma figurati, io ci avevo capito. La battuta era nel senso buono, dai. Io ne ho approfittato adesso per vedere il Zecco agito per quel Zecco come te mai. Ho preso la palla al balzo. Gappa, gappa, già va bene così, vela. Intanto, nella vita, per quel poco che ci passiamo, bisogna fidarsi la rete e scherzare. Ah, vero, niente. Va bene così, dai. Come mi ascolti, vela? Ma se devo essere sincero, per appena cupo, comunque è abbastanza buona, dai. Guarda che io non sono a casa mia, Stavo provando un baracchino del suocero di Davide. E niente, siamo anche vicini se per quello, Anche se bocca l'ubrazza pura, mi vede, vede di ciao. Ah, ecco, quel microfono al solito, senti o Gianni? Quale microfono è? Come mi com'è? La vagava è positiva, dai. Ciappa, ma mai non l'avete piazzato quello là che vi ho fatto io? Cosa già? No, Mario sta dicendo, detto, quel microfono là non l'avete piazzato? No, perché non c'è saldatore per fare le connessioni. Ma quel mobico cosa c'ha? Le connessioni della lancia? Non volevano collegare neanche al mobico, lo volevano collegare, il mobico è a 6 punte, prima di tutto non è a 4. E poi è diverso lo spinotto, è diverso tutto, no? lo volevano attaccare lì a quel multimode mio, al multimode 2, e niente, però non c'è un saldatore e non ne può fare connessioni. Gianni, se lo pazzi è quello. Lo dice adesso, se lo deve fare. Infatti, adesso c'è Pompugno, se domani vieni a casa di Antonello, però ti devi portare il saldatore, perché lui non è a fare le connessioni per attaccargli l'essa delta al multimode. Non ci sono problemi di questa domanda. Dove è l'unica cosa da andare? Perché se a casa di Capitura potrà ci dia un po' di apparecchi, che mi ha detto che regala, così stasera dice che ha fatto più sabato, ci regala 4 apparecchi radio. Quindi, prepara il furgone. Prego. Va bene, intanto adesso ti ho sentito, però non è che ti sento molto bene. Non sono a casa mia, sono a casa di Antonello. Infatti mi stavo facendo vedere quella saletta che ha preso, però non c'è saldatore, non può fare le connessioni. E niente, poi già sta qui da casa mia, a me non vi ascolto meglio, con le orecchie pelose. Ciao Antonio, mi senti anche a te, di nuovo ciao Mario, e allora Antonio, che si racconta di bello? Ciao Marchetto, Mario, perché non hai dato un grido, te lo lavo io. Che cosa? Saldatore. Ma io non lo sapevo, davvero, è vera, io sono venuto adesso perché me l'ha detto mio figlio che è venuto a casa, mi ha detto dovevo venire Gianni a portare il microfono a Antonello, però non sapevo niente, io sono venuto adesso e niente, gappa, se no non te l'avrei chiesto, tanto sei qui a due passi da casa, sei da casa di Antonello. Ma tuo figlio già c'era, ma stava a chiedere, no? Mio figlio è un po' vergognoso, non è che chiedere cose così, no? Vabbè, meglio parecchio è vergognoso. Io glielo ho sempre detto, tu quando entri nelle case, anziché entrare con la faccia, ti giri entri col culo, così entri con la faccia dal culo. Gappa, gappa, gappa. Ma facciamo riprendere a Capri 2, che lo sentivo pio pio in lontananza. Davvero, vabbè, non è colpa sua, è colpa di quest'antenino di fortuna che c'è qui. Avanti Capri. Mario, buonasera, già siamo qui di noi. Già siamo qui, una antenna che non c'è la nuca, ma si fa creare. Non c'è la nuca. Ok, adesso ce la teniamo com'è. Niente. E adesso, Antonelli, non ti sto scherzando, di apparecchi me ne lascio uno comunque, dottore, uno è buono, capito? Perché c'è troppa roba, non mi ripeto, alcuni di questi, di 27, me li vendo, perché c'è troppa roba, per favore, di 27, no, va bene, due o tre apparecchi, uno è buono, lo lasciamo, anche questo mi va bene. Antonelli, penso che sì. Che ce ne sono qui, non ce ne esce uno buono. Da comparati un buono. No, così, non ci c'è il comparati uno buono. No, che hai bagnito? Ma che cosa c'è la vita di San Giorgio? Ma sai, Paolo, mi dirà. Non ti c'è la scassibilità di San Giorgio, lo so buono. Quello che ho usato. Come ti dica? Mamma mia. Che apparecchio stai usando? 78. Marco, è piccolino, non sai che sta anche in tasca. Se ce n'era stato uno più piccolo ancora mi sarebbe andato anche il figlio. Non pigli a Portolino, io pensi c'è quel barrasso e qui. Ma spendi lì, è quel barrasso che cosa? Un male Antonio, un po', ma ripensi anche Antonio qui, riesco a dire, sarebbe un Torino, eh. Quel barrasso che cosa era? Come fa che? Quel barrasso che avevi, che cosa era, che apparato era? Vedi da me, vedi da quanti come tanti, però il suo è anche chi vuole, qui nessuno. Ah, che ragazzo. La grande, qualche. Che c'hai, mi basta, va bene per fare la chiacchierata, non devo fare le pieche, no, non devo fare nulla. Yeah, va bene. Sei così alti, quello me lo posso mettere anche nel taschino della giacca, non più nulla. Ma io penso se il Midland ne metti il cosa, microfono amplificatore va bene, va, spara bene quello lì. Sì, ma tanta lì di quei microfoni già non c'è nulla, non c'è nulla, su internet ho visto qualche cosa e si potrebbe fare un pensierino, ma per il momento mi tengo l'ala. Deve risparmiare. Allora. Destinerà più in là nuovi, diciamo, contratti di lavoro, perché non cazzo più una lira per gli apparati. 40 euro, un microfono buono. Sì, ma non lo compro nulla già. Ti piace il microfono? Ciao, microfono come si deve. Questo ti piace il microfono, capri due. E che microfono è? E tu hai detto che il carro è più serio, ma serve, guardalo se serve. E ok, ferma, però non c'è ecco quello, hai capito? C'è ce l'ho anche io quello, però ecco non ne ha. Stiamo parlando di microfoni di nuova generazione. Ma cosa te ne fai con me, non serve a nulla. Questo qui non ti piace il microfono? Oh, è bello, lecca, lecca, è bello. Ciao, molto bello. E ciao, Massari. E io già ce l'ho nel stare più tre, ti ho andato io. Cambiate di scorso. Più tre, allora. Questo qui ne vedi più quattro. Guarda lì. Oh. Se vuoi trovare il microfono, Gianni, sai come è fatto a me? Non hai, è meglio più 4, sei cazzo collegato dalla, dei cavetti o niente. Se non se lo copa subito, guarda come è andato a me il microfono per Stefano. Quindi, se tu hai il più 4, il nuovo, quello che c'hai, sei cazzo collegato, e non hai. E lui già si arrangia, e siamo a posto. Ma lo fa collegare a quello, che problema. È vero quello qui. Non potevi anche collegare. No, no, niente, sta merce Roma. Hai capito, no, non mi interessa più iniziare, io volevo Roma. L'ultima generazione, però pure c'è Natale che nell'eco non me ne faccio nulla. Oh già, che tarda il più tre perché non l'hai preso tu, un'altra volta. Perché lo voleva Natale, non lo ha. E io voglio la roba, io che l'ho per stare più breve, qua fuori metto quello che c'ho. Ma che tale voi? Io c'ho un tale nuovo qua. No, ti lamenti, Antonè, che sei cercando di più, mi dà di quella stessa. No, io c'ho tale una tavola, funzionate bene. E il tale sta di 500, e io con 100 euro in contanti. Avanti e ti metto anche sotto la macchinetta perché tu sei gonfio, sei da un altro microfono, io ti metto il decimetro sotto di sotto il coso e quindi sei ta ta ta se non ti va a continuo direi c'è bisogno di te 100 euro quindi tondi Mario, buonasera anche a te. Che bombolo! Bomba! Ecco, fa la, sto contento, vabbè, siamo anche vicini in questo monumento, Io sono tutto da un'altra parte, non sono a casa mia. Posso? Ti lascio bene, Mario. Che la roccia. Ma speriamo che mi sentano bene anche gli altri, perché a me quando vengono che è come se mi vengono disimpirsi, quando mi pongono la radio, anche vengono i santinini attaccati in terrazzo, bacare dai, mi sembra che fa la risa. Ma io ti sento bene, Mario. Kappa. Oh, vabbè, l'antennino con la fantenna si dovrebbero vedere, perché tu sei in alto, verso quella zona è libero. E io stavo tenendo per bombolo perché mi risulta un po' più a sinistra, là, guardando da qui dal terrazzino. E invece tu sei più diretto, come Pompugno. Davvero, e tutti quanti gli altri, ma anche per Falco 2 arrivo bene, mi ascolta bene, sono quelli che sono un po' messo a sinistra che guardando sempre da qui che non ascolto bene, anche gli Santinano guarda a ridimmi, è pure un bigliaggio. 9.25 Radio 5 mi arrivi qua. Mario, cosa è entrato? Forse lo di Davide c'è qui. No, hai detto Falco 2, chi è Falco 2? Falchetto, Vela 2, tu sei Vela 1. Davvero, Ma adesso che stai usando il microfono, il diavolo rosso. No. Sei già casina. Mario, mi stai sbagliando, io ti ho proprio di fronte. Hai capito? Mario! Corri! Guarda che c'è cosa, Gianni capito, sta vendendo l'apparecchiatura 25 euro una miglia, capito, perché sono tutte quante toccate, tutte cacciabittate, cioè sta vendendo 23 canali, 40 canali, sa cosa apparecchiatura, se lo devo comprare non c'è problema lì, Mario, approfitta adesso, perché se no quello muore, capito, e non c'è problema. No, Popo, io glielo ho detto scherzando, cioè ce ne ho io apparati, già l'hai vista la mia stazione, come è piccolina, non è che sia grande, però io mi accontento, capito? Tanto è vero che qui ce n'è un paio di cose, perché giustamente a casa rimanevano un po' appoggiate, almeno qui si usano. Sì, già non sono molto preoccupato per quello, è già che ha fatto il trattamento purtroppo, se la moglie lo sta scattando, facciamo scattare comunque, Il papà è un altro giorno, vende, si dice, tutte le apparecchiature, 25 euro l'una, mi ha detto, poi non lo so, adesso lui, perché lui ha, cosa vuoi ti dica io, non è vero, ma che? Mi ha dato lo sfratto dalla camera da letto. Ci ha pagato, no, ma lui quando decide di buttare tutto mi dà un fischio, io vado con lì e raccolgo, poi quello che è buono me lo tengo, quello che non vale lo piglio e ce lo butto nel cassonetto, non ce n'è problema. Io ti dico che sarà tutto per scacciavettate con l'apparecchiatura tra i canali. Però io non me ne vendo di apparecchi per comprare. Uia! Li vendi per comprarti da mangiare? Ma con chi ce l'ha quello lì? Tu hai ne ho comprato, se mi fate acquistare tu neanche uno mi va bene. Io non ci capisco una mazza. Cosa lì dai, bubu? Anche a porto sia. Cosa lì dai, Ora, sì, io vi saluto, dai, ma ne vado al mio cutiacca che sono venuto qui per vedere l'acquisto che aveva fatto a Tonello. Allora mi vado a casa, che da casa vi ascolto meglio. Almeno capisco qualcosa e vedo anch'io. Capo è il tiro. Ciao Mario, ci vediamo, avanti, capito? Non c'è niente fuori, già non si è dato due apparati, quel tempo! A rompere che mi ha fatto la padrona, già, che i miei funzionano, quelli che mi ha dato lui non funzionano! Cavaga. Non lo so, a me il microfono è chiamato, sono tutti due buoni, sono... Praticamente ce l'ha Natalino, li sta usando, anzi uno forse me dovrà tornare indietro. Non proprio più nulla, io non mi interessa già di comprare nulla, anzi di comprare tanti anni. Avanti, Alice. Ehi, capa, salutavo Mario, più che altro. Ciao Mario, ci sentiamo a troppo al limite. Volete a casa tua, c'è problema, là? Va bene, chi c'è rimasto qua? Antonio, va. Gabba, ho mandato i saluti a Mario poco fa. Dai, ognuno c'ha quello che ha, dai, non fa niente. Parte. Ehi, saluto di Mario, vai. Riprende. Tanto, questo è male, ok. Come? Questo è male, sono attaccato. Ciao a tutti, ciao. si vuole, come si va per la signora, si porta bella grossa, quello delle disarrucca. Ma c'è tu mai sono affettato che non lo faccio con te? Non lo facevo il motto, non è notte, non lo so io. Ma che tu esci il motto? Anche te ballato. Fastidio, ma non è successo nulla. a Putidin. Tu per che cosa se l'ha presa per gli apparati? Ho proprio il microfono, mi ha detto che era senza fila. Che li ha preso di Stefano gli apparati, lì sono accomodata. Ma perché il microfono era un 2, non era uno, comunque non mi ha fregato niente, la verità. Mi sono mangiato io, mi ero avanti e basta. Poi mi sono mangiato io, anche se non sono niente dentro, cosa che non me ne frega a me. Mi sono andato di avanti, ho fatto una figura a lui con lui, il discorso è quello, tutto lì. Sono qua, Via Mario. Brava, brava. Ecco, ti avanti. Buonasera Mario, ben sentito. Ed è qui, è un'altra cosa, sembra quasi una telefonata. È caduto in un occhio, sì, sono in casa mia. Vabbè, le prendo io e vi saluto a tutti, passate una buona notte. Io faccio QRP da parte mia, eh? Vedetevi tutti super salutati, ciao ciao. Da parte mia è quella della trasmissione, ciao. No, perché tutta le prossime, dai, ce la riascoltiamo. Davvero, buon QRT, buon tutto, sogni d'oro. E niente, ci risentiamo domani, se quello di su ce lo permette. Avanti, dobbiamo rum. Dai, ciao, Falchetto, mi sentito. Ecco, le ridà. Buonanotte, buon tabacco, perdone. Dai, ciao. Avanti, per te. Ciao Falchetto, buonanotte, buon tutto, buona giornata per domani. Cambia. Ciao Falchetto, buonanotte, alle prossime saluto di belli. Allora ogni mattina, cioè domani a te, domani c'è al limite. Ma niente. Ok, e poi Mario, come va? A posto, sì? Ciao, buonanotte, Falchetto, ci risentiamo domani. Buonanotte Falchetto, dai, anch'io vi saluto tutti e me ne vado a letto, va. Ciao a tutti, alle prossime, quello ti permette. Ciao Canocino, buonanotte, buon QRT, buon tutto. Vabbè, adesso che sei andato a te, se non è che tu, ciao Mattalaus. Sono stanco, là. Se no già mi sarei rimasto, ma me ne voglio oggi. Ci sentiamo alle prossime, là. Ciao, cari, a domani. Ciao, Mattalaus. Ciao, domani, ciao. Alice, la supposta è sempre pronta per te, già lo sai che quando si è raffreddato io già te l'avevo la supposta a te. Ciao, padre Gocchi. D'accordo, io sai, aspetta perché a te, guarda, c'è la supposta uguale. Non dico, quando metti te l'accogli, te la fino vuol dire qualcuno, diceva quello. E poi si vuole avere la soluzione, devi tirare il tuo cordone, capito? Buonanotte a tutti. Buonanotte a te. Buonanotte a te. Ehi, dimmi, io che sto chiudendo. No, ci volevo soltanto fare una domanda anche a te. Ma il cliente mi sta diventando secco in culo anche tu, no? Sì, certo, anche tu. Detto me l'hanno a me. Ciao, ciao a tutti. Buonanotte. Dai, ci sentiamo domani, magari ci prendiamo un caffè, no? Poi capa. Ciao, buonanotte a te. Ascoltate, ma niente state facendo? Dimmi. No, me la voglio accompagnare, che sono stanco. Sì, c'è una mazzetta se la vuoi, non c'è problema. Vabbè, ci vado a spola, le prendete. D'accordo. Cosa dite, Nacchi? Beh, da qui mi ascoltate meglio, è vero? Gianni! No, tocco una testa, guarda che chiama Gianni. Sono io. Sto chiamando per farlo rientrare. Avanti Capri 2. Oh, Capri 2, si è offeso. Buonanotte, comunque se si era ascolto. Ci sentiamo, avanti Mario. tanta cazza, io non ho capito niente. Davvero, non ho capito niente perché purtroppo non ero nella mia stazione, là si sentiva un bel QRM, era più quello che non capivo che quello che capivo. Purtroppo è andata così là, non posso dire nulla perché non ho capito la mazza là. Te lo spiega liscio. No, no, non c'è bisogno di spendere, io non sarei io. Buonanotte, Gianni. Al limite vai in banca, fai una sedia, non ci sono problemi. E tutti siamo a posto. E felici e contenti. Buona Pasqua e buon Natale. Avanti, Gianni. Avanti, no, Gianni, Mario. Ragazza, andrà bene. Io non posso dire niente perché non so niente, abito in campagna e quando passa il treno che pischia non si capisce nulla. Così. Ma voi niente problemi di credo, grazie a Dio, da un attimo, voi che non se ne è fatto, comunque, già capito il discorso di quello là, quindi non c'entriamo niente né tu né io né negli anni, quindi non c'è problema. Ok, non va bene Meda. E allora, Mario e Davide. Davide è andato a pescare. A pescare è andato? Come vai? A pescare! Aspetta, come mai? Aveva voglia di andare a pescare. Meglio così, sono contento. Certo. Ma gappa, è venuto e mi si è avviato per il cane da pesca e si è avviato. Ma io ho un capello stasera, mi stavo facendo... Certo, una settimana fa l'ho vista a canale alta 50 cm, adesso un metro e mezzo, fino alla tv. Ho tirato la disperatore e l'ho passato con un dito e l'ho fatto a pizzi, era male. Almeno la campagna è tirata nel centro da far vedere, capito? Allora, io ti stavo aspettando, visto che non sei venuto, ma sono uscito. Vabbè, che prima non sono abile. E mi ha detto che Antonello si aveva comprato il microfono e sono andato a vederlo, perché non sapevo niente. Sì, no, la verità io giù in campagna, quindi no. Sono stato mi parla, due ripeto fa, la verità si dica. Ma fatto dice che il cerab è alta quasi un metro e mezzo, la verità. E quindi ho fatto il passaggio per poter passare, lo sai, dal ponte fino arrivando in campagna nostra, quindi voi da lì fare il passaggio per poter passare fino alla casa e quindi cose del genere. Mi sono detto per quello, capito? Beh, non è che una cosa solo non basta, è la verità. Cioè, di cose non bastano. Adesso due di martedì ci facciamo la passata e siamo a posto. Ehi, gappa gappa. Ma se quella lì gliela lascio tagliata sopra, quella là non pigliando il sole, quella che c'è sotto, non cresce, capito? E si marcisce quella che c'è sopra. E va bene così. Ah, che sai quando comunque si fa l'erba lì? In campagna, una cosa micidiale. Ma sai quando c'è... non ti posso dire, si è pegato uno così che faceva male. Comunque, quel tipo che lavorava lì a Bettellina, cosa del genere, che c'era la casa sua, adesso c'era lì, la ruota c'era, e la ruota lì, lo sai. Qui si è aperto il caseggiato, tutto quanto, sono per la sua. Ci sono i conigli, lo sai la notte, tu vai lì e prendi i conigli. Cappagatta, i conigli ci sono dappertutto. Ma quella casa di Roccata ci hanno comprato? Quello abita lì, abita. Quello che c'aveva l'affitto del cervello, tu mi conti a fianco a noi. Si è avviato un rotto, siccome ci ha portato fuori dei lavori, non so se la moglie che è morta, non so che cosa, o i figli, quello che è, lui abita su un rotto e abita lì, comunque ci sono il mammista, non c'è il mammista, dove siamo noi, per dire, avete un sacco di conigli, è pieno. Come oggi dice, è pieno di conigli. Dimagate, vai a caccia, a un lavoro a tazze. E ti fai conigli gratis se ti fai. Non vado adesso in campo. No, credo che avevano contatto con la casa che c'è, mezzo di roccata entrando lì, per andare verso casa, a destra. Credo che avevano contatto quella lì perché ho visto che hanno messo la sbarra. Io so che quanto deve, quanto sue delle suole, non so che sono le sia, ma comunque delle suole. E come lui vive lì, con la grotta, a quanto sembra. C'è un voto bianca a due posti e lui vive lì. Non lo so. Ma la stanno sempre coltivando la pezzettina che c'era vicino a lui? Sì, già. Lo sta coltivando lui, mi è rimasto da solo lui. C'è lui da solo insieme al terreno e basta. Sì, gatta gatta. Non mi ricordo manco come si chiamava. Anch'io la pensavo ricordi anch'io come si chiama lui, comunque fatto stare tutto culo a quello, perché il quello tra due suore e giro giro quella che dovevano e rimane da su, te lo sto dicendo io. C'era un ruolo, proprio mio figlio era tornato fuori di casa, quindi se l'unico nome non me lo ricordo la vita, c'è un nome strano ma non me lo ricordo. Vita Barbone. Vita Barbone. No, non è Vita Barbone. Lui mi so che ce l'aveva, già, non era di Vita Barbone. Non mi ricordo che diavolo si chiama cognome, non lo dice. La verità, la moglie è morta, il figlio è morto lo stesso perché era tossico. Perché magari se lo ricordo già lo conosceva, però non mi ricordo se il cognome è come si chiama, si chiama. Quindi c'era l'affitto, ma roba di 20-25 anni gli ha dato le suore, quel terreno, che affitto hai quel discorso? Ah, e lui se lo coltivava, era ricavato se lo prendeva al terreno. No, soprattutto qua lui, perché lui c'era solo un ruoto, due posti lì. Se tu vai lì, c'è un ruoto, due posti, sembra un ruoto di zingari, di quella normale, due posti. E lui abita lì, abita. Se la va, se la va, se la va, se la va. No, non mi ricordo il cognome, se la toccavo, non me lo ricordo. Però, non mi viene in mente, ragazzi. Ma dice, mi ricordo bene, la fiamma le verdure con la foglia. Ma sempre non è fatto così, per questo, scusa già, sempre è stato così, capito? Ma è fogna però quella, Gianni? Aspetta, Mario, prima la fogna, dopo lì che è stata la fontana, perché lì l'acqua che arriva è l'acqua di Fontanozza e l'acqua della fontana di Rosello, perché è così, fatto da lì su. Ciao, Gama, io mi sto tutto là. Buonanotte, buon riposo e buona giornata per domani, che domani ci vanno nuovamente in combattimento. Vai Natalì. Natalì. Ah, Natalino, buon pugno. Sì, ciao, per partecipare alle prossime, la fine del giorno, comunque saluti avanti Gianni. E io ci ho salutato, Bombolo. Bombolo deve essere un mito, un mito. Vabbè. Comunque l'entrata della campagna tua, che parte eri? Ma che dici? Che te lo ricordi già? Io non sono mai venuto in campagna tua, più o meno so dove, ma non sono mai entrato. Non ci dici, noi si inquieti lì, scendi giù, c'è il botticello in legno, gira a destra, e quella è la campagna mia. Che coltivata. Ma coltivate la tua. Ehia. Cosa c'è piantato? Il YouTube è che sono ricco da Mario. L'unica cosa è mancata c'è l'acqua purtroppo, perché prima c'era l'acqua, ci mettevamo in un'idea, ti ricordi Mario? potevamo la birra, il vino, in mezzo all'acqua, a casa, con l'ombra a birra. E c'è la sorgente lì. Io credo che rimettendo il tubo rimanga lì in la sorgente. Ormai non c'è più purtroppo Mario. Lui, Gianni, forse mi capite, lui ci sta fatto qualcosa, sì. Davvero, è caduto in mezzo all'acqua. Cosa? Va là fuori. Vabbè, quello che vuol dire, era foglia prima, la verità, perché non è che c'era metà di acqua normale, poi c'era metà di foglia, comunque è caduto lì. Però almeno si è ripartito, la verità. Poi c'è, mi sembra che anche lui mi sembra che Gianni, cioè non, Gianni di Cogliosi, già lo conosce anche tu, poi andrà a manicomio, saliva di mio, eccetera, eccetera. Io ci mi ha parlato a fare che era, la verità, mi sono sempre divertito. E la cosa è anche l'acqua, quando mettevi in quella sorgente, l'estate è una cosa micidiale, è stata la fresca, ma l'inverno era calda. Gappa. E ti avevi messo anche l'antenna, se non sbaglio? Sì, c'era la canzone del baracchino, la verità, che è stata lì. E ci metteva un parecchio. Poi, vabbè, è durato poco, quello che è durato, pazienza, però non mi sono venuto più, la verità. Ma non avevo molto, sai quante volte mi sono buttato di io. E sono stampato e mi sono fatto il morto, in mezzo all'acqua, perché lui passava la sorgente e entrava l'acqua dove eravamo noi e usciva dall'altra parte. Era proprio era casa a casa che ci avevi o qualche casetta delle attrici o roba del genere? Ma una era casa, più che altro, non casa, ma casa era. Poi la casa delle altre si è data dopo, la verità. Sei diroccato, eh? Che comunque sia, mi divertivo un bel, ma bello che mi divertivo quel periodo. Uscivano una sorgente, come avevano fatto 15 metri di palo, mi dici, a quando ci avevano fatto questi falsi salini, ti dico di Mario, 15 metri di palo con la prima, non mi ricordo se era 27L o che non era, forse era su quello di Gibus in cui abbiamo sollevato lì. L'Ingibus era quella che per l'uomo che ha fatto lì, comunque chi non ho più sentito e non ho più incrociato è quello che trasportava i farmaci, a Geppo mi pare che si chiamava. È vero, sì. È vero, non ho più sentito, ma dove l'ho più visto quello? C'era lui, poi c'era quello che veniva con quella onda sotto casa tua, ti ricordi che anche lui faceva trasporto di farmaci, quel tipo piccoletto? No, la verità non ho visto nessuno, Mario, non ho più visto neanche un cane. Poi mi sono detto la verità, tanti anni fa, in campagna, la verità, mi divertivo. Ma un bel una panica vettori di acqua fredda. Pure non affrontarmi, come si che prendevo i secchi che facevano il vettore d'estate, Gianni, se sei tu qua, se sei stato tu vai, ti sei divertito, ci facevano un vettore da vicino, non con l'altro, ma c'è dimmi, dopo di 10, 15 alla volta, poi d'estate ci vengo salito in moto, la cosa in Italia, ce ne vuoi giù, con quei soldi, mentre lo facevo, mi tiravo via con le bistecche, birra con la gel vino, mi ripetevo un bel. Poi io bevo da quella, i punti che sono cambiati e pazienza. La gente è diventata grande, è invecchiata. Ci sono sceso io con le speciali, cazzo, che domani c'era la campagna piena di pulizia. Ehi, c'è tutto il divano con le pistole. Vero. Ma mai gli hanno avvisato? Perché abbiamo fatto casino, avevamo organizzato la seminata. E poi io, quando era quasi pronto per mangiare, ubriaco sono andato a casa e sono ritornato che aveva già fatto buio e sono ritornato che eravamo tutti quanti armati di pistola, io, Davide, poi non mi ricordo che altro c'è, insomma eravamo in quattro, tutti quelle persone siamo andati lì, abbiamo fatto tutta questa campagna sparando come matti, e qualcuno deve essere che ha chiamato la polizia, e sono venuti a cercare le armi. Beh, non ha cazzato niente. I bussoli delle pistole per terra hanno trovato. Non sono mai risaliti a niente. E già se ne sono accorti che erano pistole giocate, lo mica che erano pistole vere. Ah, di quelle scacciaccate. E di quelle che sparano a salve, dai. Niente, però quando loro sono scesi si credeva che c'era chissà che cosa, invece più che a terra hanno trovato i bussoli delle cartucce, ai tali si sono presi la salve, si è levato una risata, si è levato, solo che hanno cagato l'orgoglio babbo, perché mi sembra che avevano trovato una vecchia cartuccia di quelli da caccia, e niente, dai. Certo casino, insomma. Noi ci siamo divertiti alla grande, perché ogni volta che si andava lì si organizzava arrostite di sardine, di zemino, perché allora c'era ancora lo zemino, e già si stava bene qui che ti li dà. Ma c'è pure adesso da lì. E ma adesso è tutto di contrabbando, non è che vai in macelleria, te lo compri, sei tranquillo. Allora deve essere trovata la cua che purtroppo l'hanno dichiarato fuori legge e non va bene. Sì, ma anche la Fiorentina l'hanno mangiata e poi l'hanno rimessa in circolazione, perché lo zemino no? Perché lo zemino non l'hanno messo in circolazione. Purtroppo è così, cioè se no che tu lo pigli, te lo porti a casa tua, te lo cucini, te lo mangi, non ti rompono la scatola, ma se ti dovessero fermare, anche se ce l'hai in macchina, e te lo dovessero trovare, sono mal di denti, chi te l'ha dato, chi non te l'ha dato, da dove l'hai preso, quello, l'altro, e ti rompono le scatole. Quello lì che è vero, è vero. La ciappare macchina trasportando. Capo di positivo, non lo puoi fare, capito? Non si vuole, perché anche io lo so, vai, te lo ordini, ti dicono a me a tale ora fatti trovare lì, te lo passo e via, ma devi fare tutta la cua, anche se non sai anche uno e ti vadono un controllo cosa sul duro di denti. Pare se spacciati droga, no? Non andate a comprare lo zemino. Proprio così. Sembra che stai facendo chissà che cosa, da me stai organizzando una magnata. No, io c'ho un mio collega che lo busca, loro c'è nel circolo, quindi conoscono gente e lo busca. Ma te ne ricordi quella soffietta che hanno fatto a quello che lo stava portando? Che gli hanno trovato quello zemino in macchina che lo stava portando per i circoli da Messina, qualche circolo che magari non era l'altro, l'ha fatto la zuffiata, l'hanno fatto bisogna vicino all'autoparco, l'hanno preso sequestrato lo zemino, ma sono molto allucinanti. Dio, quello lì so che gli hanno sequestrato anche la macchina. Non lo so questo, però so che ha passato casino. E comunque quello deve essere la carognata che l'hanno infatto, quindi come ti lo sappia. Quello lì più che una carognata non è stata, perché sicuramente è così, perché cioè, tu non puoi sapere che io oggi sono uscito da tal punto che dovevo recarmi a tal punto, perché l'hanno disegnato per prendere da consegnarlo. E allora, vicino al tuo parco l'hanno pizzicato. Gianni? Sì. Vabbè, io sto scrivendo, noi ci vediamo domani mattina, domani sera, adesso vediamo un pochettino. Ciao anche Mario, salutami video della batteria, saluto a tutti. Alla prossima io faccio quelli qui e vi faccio una bella dormita. A domani mattina. Grazie. Ciao. Ciao Charlie, buonanotte, dai, sto chiudendo anch'io, saluto anche a Mario, tutti gli amici che sono all'ascolto, guarditi per me, e buon lavoro a tutti, dai, ciao ciao ciao. Ciao ciao, buon lavoro Gianni, buon cuoretti, buon tutto, ci risentiamo alle prossime, buon lavoro per domani. Oh, Antonè, se domani ce la fai, fatti un salto, che così gli fai quelle connessioni a quella sedelta, almeno se lo usa, da, perché è incavolato meglio, perché è andato a attaccare e ci è rimasto male, perché fischiava. Niente, poi stavo guardando il saldatore ce l'aveva ma gliel'hanno spaccato, così che niente. Se ci puoi andare ci vai e poi vedi tu. Vabbè, buon QRT, buon tutto, anche a te, a te. E ce la risentiamo alle prossime. Passa a canale 40. Ciao, ciao, ciao. Tutti mai, ma il coso, il socio di Davide, sì. Eia, si è comprato la sua delta. No, io con le cose non ti preoccupare, voglio sera. Se non sa, io con le cose io, non preoccuparsi. Eia, d'accordo, va. Ciao, ciao, buonanotte. Perché poi con il filo, capito, se non sei sceso in moto, il discorso è quello, faccio cartella. Sono la prima che è sceso, ma che c'è da lì sotto al limite, vabbè pazienza, ma mi vedo, purtroppo, vabbè, non riesco a darmi in casa, ti faccio prima, passano ogni 5 minuti, quindi la moto è davanti, voilà, e sono giù io, quindi non preoccuparsi. Già, d'accordo, va, ciao, buonanotte. Ciao Mario, buonanotte a te.